Il sabato del villaggio. E come ogni sabato a quest'ora, la terza ora del sabato del villaggio si trasforma in RadioTube. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, la mia terza ora preferita del sabato pomeriggio, dopo le due ore del sabato del villaggio, che io passo solo pensando: ma quando arriva Daniele? Ma quando arriva Daniele Bellasio? Ma quando arriva vero, Daniele? Ed è arrivato. Dai, che divento rosso. A me piace molto il sabato del villaggio, sono un grande fan, lo dico sempre. Mi dispiace di rovinare la terza ora del sabato del villaggio con la mia presenza. Che dire, però... sai che sabato scorso io ho retto fino alle 17.59 e poi mi è venuto il raffreddore del millennio secolo. Sulla sigla di RadioTube, ho cominciato a star malissimo. No, te l'ho attaccato io. Io adesso... Senti Marta, vogliamo dare i nostri account di Twitter? Dai, for vai, save Twitter, mi raccomando, cancelletto, save Twitter. Anche se la più bella la che ho sentito bene, era, sai qual è la fine di Twitter? La fine di ER. Non l'ho capito. Twitter è una roba, cioè, Christian Goldoni è svenuto. Dobbiamo fare senza la regia. Ma no, come la settimana linguistica. Io ho il vizio della settimana linguistica. Allora, Marta Cagnola, di Bellasio, hashtag RadioTube, hashtag ISDV, che è la parte bella del sabato del villaggio. E poi niente, poi, la questa settimana si apre. Allora, io si apre con una grossa delusione. Perché quale? Pensavo di aver trovato il protagonista della settimana. Che era? Il collega di Sport Italia, se non sbaglio. Sì, che ha picchiato con una banana gonfiabile il disturbatore. Sì, che però... Però mi hanno detto che non era vero. Cioè? Ma, vabbè, ma non allora, era vera mostriamo... la banana, non era vero il collega, non era vero il disturbatore. Cosa non mostriamo era vero? Mostriamo alla radio. E appunto si trasferirà alla fine delle visite mediche. Sembrava esserci stato qualche difficoltà tra Pato e la società, ma dopo aver primato gli accordi. Insomma, questo lo disturbava. Spieghiamo. Con un bananone gigante, gonfiabile. E alla fine di questo video il collega di Sport Italia iemena. Esatto, cosa che vorrei fare anch'io, capito? Bananone gigante. Ecco, non ora. Perché non tu ho portato detto... il bananone gigante, però ma che puntata devo fare? Come facciamo ad andare avanti? Senti, che bello, voglio hai riso tutto il pomeriggio con Simone Spezia di questa cosa. Sì, perché... Mandando in tilt il palinsesto della radio, perché eravate lì a ridere. Ma perché quando... Devi sapere che io lavoro, la mia scrivania è di spalle quella di Simone. Ogni volta che uno dei due trova una scemenza si volta, guarda! Ma era finto! Sì, ma cosa era delusione. Finto? Ma era un attore, era un attore, hanno fatto male. Vabbè, ma vedi, è diventato virale. Dai. L'altra cosa sono che volevi mostrare male. Prima allora di parlare... Allora lo farò io davvero con la banana. Dai, devo andare con a comprare la banana gonfiabile. Andiamo avanti, che qui è complicato. E poi non siamo ancora la zanzara. Grande amore. Manca poco. Ma quanto lo amo. Sì. No, manca poco, è sabato. No, a parte col mio grande amore, a parte Cruciani Chris Martin dei Coldplay. Chris Martin. Che figo. Mi piace, li conosco. Che li ho sentiti tra nominare. L'altro non vedo l'ora, perché ne abbiamo parlato anche nel sabato del villaggio. Perché? Perché canterà nel Super Bowl. A Sanremo. Sanremo. Ma pensa sei monomaniacale. Ma no, canterà al Super Bowl. Sì. Quindi io domenica notte da Sanremo mi guarderò il Super Bowl. Sai che ci sarà per uno spot Chris Martin, ma anche con la canzone di David, uno spot, però non diciamo della marca. No, esatto. Allora, andiamo avanti. Però cosa ha fatto Chris Martin? Sì. L'altra cosa che voglio fare io, oltre al bananone gigante gonfiabile, sì. Il carpool karaoke, sì, quella cosa detto. Che è vero. Ti porto sulla mia panda, sì. E noi mettiamo una compilation e cantiamo, però... Dottor Campo Dall'Orto, non copi il format, perché è di Marta Cagnola. Ma no, il format è del Late Late Show. Già. Ma sì, noi abbiamo sentito Adele, abbiamo sentito Stevie Wonder. Ah, ma lo vuoi fare proprio uguale tu? No, voglio fare uguale, voglio io pensavo alla trasmissione, che parlavamo, chiamavamo gli ospiti, no, invece no. Ma intanto ci ascoltiamo cosa ha combinato quel figo di Chris Martin. Chris! James! What are you doing? I'm trying to get to the Super Bowl. Where are you going? Allora, caricato in macchina da James Corden, che è, come sappiamo, l'abbiamo già parlato molte volte, il conduttore di questo Late Show, Latest Carpool Karaoke. Ma è quello inglese che è andato in America? È lui? Quello, sì, è quello che tra l'altro in questo Carpool Karaoke dimostra di saper cantare e suonare molto molto bene. Ecco, a differenza mia. A parte che questo è un pezzone, però sono fighissimi a cantare. Il conduttore? Il Lure, sono il conduttore e Chris Martin. Sono James Corden e Chris Martin che fanno un bellissimo carpool karaoke e anche lui ha suonato un pezzettino di We Can Be Heroes. Vero, mi ricordo. Sai chi è un grande fan di Corbin? Non so se dei Coldplay. Non so. L'ospite che abbiamo al telefono. Allora glielo chiediamo. Sì, perché volevamo parlare un po' di primarie. Volevamo parlare un po' di America. Io volevo parlare solo di primarie milanesi. Però Marta, essendo di Mercate, c'ha un odio per Milano. Quindi parliamo delle primarie altre. Milanesi per me rivestono lo stesso interesse. Lo stesso effetto dell'Ikebana. Ecco, e allora parliamo di quelle minori, cioè di quelle americane. Ne parliamo con il direttore. Devo stare più lontano dal microfono. Di Il, anche perché sai che Il ha un nuovo sito. Adesso devo anche fare una protesta. No, sul più sito. Non si può dire perché. No, vabbè. Christian Rocca in diretta da New York. Ciao, Christian. Ciao a tutti e due. Ciao Cristian. Com'è il sito? www.24 il magazine, giusto? .com. Eccola. No, la mia protesta è che io l'ho guardato. Sì. E ci sono come sempre i ritratti del direttore dei contributors. Sì. Ma Bellasio non è tanto carino quel ritratto lì. Non sapevo che arrivava là. L'abbiamo fatto apposta. Ah, per sviare le fans. In realtà, esattamente. Perché A è molto più figo. Il ritratto. Adesso lo so cosa stai per dire. Che sono pieno di... Stai per dire che sono dicendo... pieno di capelli nel ritratto, a differenza della realtà. No, sto dicendo che nel ritratto potevate fargli gli occhi azzurri. Potranno andare sul sito a guardare e poi scriverci e dirci no, Bellasio esatto. Più bello, più brutto. E poi faremo live vlogging di questa... Bisogna fargli gli occhi azzurri nell'avatar perché non ce li ha. Vabbè, no, a parte gli scherzi, lì trovate un bel diario sulle primarie, un po' di roba anche sulle primarie, quelle che contano, cioè quelle milanesi, ma invece parliamo delle primarie americane. Marta, vai. No, sono curiosa di sapere anche perché tu sei a New York, ma sei appena tornato da New Hampshire, dove è successo qualcosa di interessante. Sono stato in Iowa prima durante il caucus, è la terza volta che vado ai caucus in Iowa, quindi il terzo ciclo elettorale, e ogni volta rimango stupito della straordinarietà di questo evento, perché quando uno poi va lì e vede, poi cerca anche poi di raccontarlo sui giornali, ma spesso non ci riesce davvero, è incredibile pensare come l'uomo più importante e più potente del pianeta, il Presidente degli Stati Uniti, venga eletto con un processo democratico che comincia in queste palestre, in queste mense, in queste scuole, queste chiese, questi edifici pubblici dell'Iowa, dove centinaia di persone, non di più, si riuniscono, alzano la mano, si contano come se fossero appunto alle scuola elementare, ed è veramente indescrivibile, perché veramente si arriva a alzate di mano, lanci di monetine, quasi sì, gente che si sposta. Ma infatti Trump se l'è presa, si è arrabbiato, ma non ho capito benissimo. Ma Trump era favorito e poi invece ha perso malamente, era lo secondo, quasi raggiunto dal terzo. Devo dire che quando ho partecipato a un caucus dei repubblicani si era capito un po' che la cosa era un po' strana, perché lì parlano per 3 minuti i rappresentanti di ciascun candidato, i candidati repubblicani erano tanti, e Trump non aveva nessun rappresentante lì che parlasse della sua candidatura. Da qui si è capito che non aveva una struttura sul terreno. E questo, in un tipo di elezione di questo tipo, è abbastanza importante e decisivo. Infatti ha perso. Poi lui dice che gli altri hanno rubato, ma insomma, però è Trump. Ma tra poco ti facciamo parlare anche del mio amico Donald Trump, perché voglio sapere cosa ha combinato questa settimana. Ti chiediamo solo un attimo di pazienza, perché abbiamo il traffico. Chissà com'è il traffico sul ponte di Brooklyn, non lo so, chissà se ce lo dice. Adesso lo scopriremo tra poco, forse, ma ci ritroviamo tra pochissimo. Donne, Tirate fuori le vostre Barbie dalle soffitte, dalle cantine, dai cassettoni e dagli sgabuzzini. Fatevi una foto assieme alla Barbie della vostra vita e mandatela a melog@radio24.it. Saranno selezionate solo 150 donne che, assieme alle loro bambole, saranno le fortunatissime protagoniste della Notte delle Barbie Viventi. Avverrà la notte del 17 febbraio al MUDEC di Milano. Ci sarò io, ci sarete voi, ci sarà Barbie. Chi verrà non lo dimenticherà mai più. YouTube. I think what he did is disgusting. He said that Ben Carson, who's a fantastic guy, had dropped out of the race during the caucus. He had dropped out of the race and vote for Ted Cruz. All of those people come and vote for Ted Cruz, and many of them did. I think it was a disgrace that he did it, and I don't think it should be even allowed. I think those votes should be taken away, and there were plenty of them. Ma era il mio amico Donald. Ma perché dici tuo amico? Ma perché mi diverte troppo. Perché fosse magari candidato nel mio paese sarei un po' preoccupata. Ma invece vedendolo così lontano è pittoresco. Molto pittoresco. Donald Trump candidato a Vimercate. Secondo me siete iscritti agli stessi canali di make up. Ma sono sicura. No, secondo me lui più di coiffeur. Di coiffeuse. Di parruccheria. Sì. Ma cosa volevi chiedere su Donald Trump? No, volevo sapere, Christian Rocca, che è in diretta con noi da New York. Come sta appena Donald, che la scorsa Hampshire settimana aveva detto io vinco senza partecipare. Facile, fate voi, proprio, vediamo se siete in grado di fare qualcosa senza è di finito? Me. Com'è andata questa settimana con Donald? Perché io ho letto che qualcuno, com'è che era, Cruz Trump's the Donald, cioè gli hanno fatto lo sgambetto. Sì, diciamo, Trump è andato abbastanza male. Io ero a un comizio in New Hampshire, quello dove Trump ha detto questa cosa che avete mandato in onda, cioè ha fatto quello che in americano si chiama sore loser, cioè quello che non sa perdere, un po' come, non so, Mancini, gli interisti, insomma, quelli sì, lì. Sì. No, a parte mi sono distratto un attimo e subito un attacco, cioè mi sono Mancini si era distratto un attimo la settimana scorsa, sì, e ne hanno presi un po'. A parte le battute, insomma, non è stato carino da parte sua dire ho perso solo perché gli altri hanno barato, perché in realtà, diciamo, nel personaggio Trump non ci sta la parte, il ruolo di quello che perde, perché se a Trump togli l'aspetto vincente, l'aspetto di quello che sa fare le cose, che costruisce i palazzi e che è sempre in testa e vince nonostante praticamente abbia speso niente, pochissimi soldi rispetto agli altri candidati, perde, diciamo, tutto il suo appeal. Quindi adesso la sta buttando su questo, sui brogli che ci sarebbero stati, ma che, insomma, secondo me la cosa rimane. Lui sostanzialmente accusa Ted Cruz, che è quello che ha vinto il caucus dell'Iowa, di aver detto nelle ultime ore prima del voto che un altro candidato, Ben Carson, che era abbastanza messo bene, si era ritirato e quindi molte persone avrebbero votato per Ted Cruz, considerato affine a questo Ben Carson, ma mentre non era vero perché Ben Carson era ancora candidato. Però, insomma, sono piccolezze di schermaglie di campagna elettorale. Adesso la cosa più importante è che Trump è con un forte vantaggio in New Hampshire, dove si vota martedì, e quindi se dovesse vincere, come è probabile, ovviamente ritorna in corsa. Se invece dovesse andare di nuovo male, e allora secondo me si può dire che è finito il divertimento. Ma sentiamo come Ted Cruz aveva risposto a Donald Trump. And I understand that Donald finds it very hard to lose, that he finds that very difficult for him, but at the end of the day the Iowa people spoke. Donald Trump guaranteed a victory in Iowa and then he lost, and he doesn't like that, and his reaction is that he breaks down. E com'è che era? Bisogna saper perdere. Insomma, sì. Però mi sono divertita tanto in questo periodo con le uscite di Donald Trump. Ma non è detto, lo dai per no, spacciato. No, ma infatti Christian, voglio sapere un'altra cosa. Voglio sapere Hillary. Come mi sta la Hillary? No, perché anche lei. Hillary, di tutti i candidati che ho seguito in queste settimane in giro per gli Stati Uniti, li ho visti più volte. assieme a diciamo, parlo dei candidati principali, e assieme a Marco Rubio tra i repubblicani. Quanto mi piace l'unica... Marco Rubio, che bel tipo, che Marco ho, Rubio. Ho anche un selfie con Marco Rubio. No, se vuoi, mandamelo, sì, mandamelo. Me l'ha chiesto lui. Per favore, perché ha detto se, ho sentito che hai aperto un sito nuovo, che adesso sono anche io, mi piace molto la grafica. No, vabbè. Tornando a Hillary, diciamo, è l'unica insieme a Marco Rubio tra i candidati favoriti che appare presidenziale, appare, sembra, cioè tu la vedi, l'ascolti, la vedi, vedi come si muove, cosa dice, non figura assolutamente come, come presidente, come, nel, come il presidente della, nella realtà, come un presidente che, di quelli che vediamo nelle serie televisive, insomma è perfetta nell'immaginario nostro. Detto questo, lei non è molto amata, un po' perché per tutte le battaglie che ha combattuto negli anni passati, e un po' perché comunque è rappresentante, cioè lei si ispira molto agli anni di suo marito, di Bill Clinton, che sono stati straordinari dal punto di vista della crescita economica e così via, e solo che però come dire, trasmette un'immagine del passato, e cioè parla degli anni 90, è la candidata degli anni 90, e gli americani tendenzialmente amano invece affidarsi a gente che guarda al futuro con uno sguardo ottimista, che parla delle nuove generazioni, che parla di forward, lo slogan di Obama. Esatto, il sogno americano e così via. Detto questo, lei sembrava assolutamente impossibile da fermare, questo successe anche 8 anni fa contro Obama, tanto più che questa volta contro aveva un anziano senatore socialista, l'unico autonominato socialista che per gli Stati Uniti è una specie di insulto, questo Bernie Sanders, e quindi sembrava la partita assolutamente scontata, una partita con un rigore a porta vuota, e invece non è stato così. In Iowa hanno praticamente pareggiato, e in New Hampshire, dove si vota appunto martedì, Sanders è in vantaggio molto solido. Detto questo, Sanders non ha al momento soldi e organizzazione per continuare negli altri 48 stati, mentre Hillary sì. Però sai, dopo due vittorie potrebbe, una vittoria, un pareggio che è una vittoria in New Hampshire potrebbe, come dire, acquistare questa inerzia positiva e rendere difficilissima per Hillary la partita. Grazie Cristian per essere stato con noi. Cristian Rocca, stupendo. Direttore di Il. Adesso mettiamo, twittiamo anche. No, ma goditi New York. No, no. Qui nevica, qui nevica. Ah, che bello, frizzantino. No, qua maledetta caldo. Primavera. Già, qua è arrivata la maledetta primavera. Siamo pronti per Sanremo. Ciao Cristian. Grazie Cristian. Adesso twitto anche il link di Il, che così lo trovate. Il online. La foto con Rubio. Ma tradimento? Sì. A tradimento, Marta, puoi anche andare. No, parliamo di primarie milanesi finalmente. No, guarda, ne parliamo. Quella roba che interessa solo all'interno dell'area C. Già se esci dall'area politica. C non interessa a nessuno. Allora, parliamo di una cosa che è piaciuta a me e a Cristian. Volevamo trovare un nuovo... Cristian Goldoni è piaciuta. In regia. Sì. Volevamo trovare un nuovo modo di raccontare Milano e le primarie. Abbiamo visto il video di un fotografo italiano molto bravo, che nel 2009 ha vinto, leggo perché questi premi per me in inglese, il World Press nel 2009, con quella foto bellissima della rivolta sui tetti di Teheran. Abbiamo al telefono Pietro Masturzo. Ciao. Ciao, buonasera. Ciao, allora ci racconti perché hai raccontato in modo diverso Milano, come hai fatto? Allora, ho pedalato tanto, innanzitutto, nel senso che il progetto era di... insomma, andare in giro per Milano in bicicletta, appunto, e insomma andare ogni giorno in una zona e raccontare, a partire da quelli che poi saranno i seggi in cui si andrà a votare, e la Milano da votare. La gallery con tutte le foto si può trovare sul sito delle primarie di Milano, così si vedono tutte le zone. Poi in rete gira anche un bel video di, appunto, tu che pedali. Qual è lo scorcio di Milano che ti ha colpito di più? Ah, guarda, innanzitutto non sono milanese, per cui per me è stato anche un po' un modo per scoprire bene la città da cui abito da poco, e sono stato colpito da tantissime cose, soprattutto dai parchi, dalle cascine, da come insomma si stanno rivalutando, ristrutturando delle varie attività, dagli spazi condivisi, ecco. E ma anche dalla modernità della città, come dicevo appunto nel video. Sono queste due facce di Milano che mi hanno diciamo colpito maggiormente. Tu viaggi molto all'estero, immagino che starai per fare qualche servizio altrove nel mondo. Dove stai per andare? Sto tornando in Iran, così tanto per gradire. A seguire che cosa in particolare? Ma torno soprattutto per vedere un po' quali sono i primi cambiamenti dopo gli accordi di Vienna, se ce ne sono naturalmente, se sono già visibili, e insomma così, in realtà torno abbastanza regolarmente dal 2009 poi. Immagino che ci sarai legato anche per la foto che ti ha fatto vincere il World Press. Assolutamente sì, assolutamente sì. Dunque, noi ti ringraziamo moltissimo. Abbiamo parlato di primarie alla faccia di Marta Cagnola, che non vuole parlare di primarie. Ma non ti piace più la politica. Vai a vedere le foto, vedi Milano, da Vimercate. Dove abbiamo parchi, cascine, basta uscire da Milano giusto, per Vimercate, cioè praticamente Milano ma no, è ma una che piccola uno vuole Vimercate. Stare a Milano, però vedere le cose che ci sono in campagna. Venite in campagna. Pietro, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Ciao, buona serata. Grazie Pietro. Sarà una piccola Sì, abbiamo una piccola pausa, ma siccome io non ho seguito niente le primarie milanesi, sì. Dimmi chi vince, che adesso vado a Sanremo, non ho tempo il di volo. Seguire. Ah, vince il volo. Sono candidati tutti e tre. Con la coprono lista. Coprono tutto lo spettro. Con la lista. No, scherzo, che magari si offendono, non lo so. Si può fare un pronostico, ce la par condicio. Secondo me non vince Sala, anche secondo facile. Te vince Sala. E secondo me la sorpresa sai chi è? La sorpresa è? Pier Francesco Maiorino. Mi sono sbilanciato. I pronostici, la sorpresa nel senso che prende un bella percentuale. Ah, che prende una bella percentuale, ma non vince. Ma no, però vince no, perché vabbè. Penso che vincerà Sala. Allora, ferventi. Ragazzi, a tra poco. Com'è abbiamo acida. Ancora un sì, acidissima. Abbiamo ancora un sacco di cose belle in questo Radio Tube. Ci ritroviamo tra pochissimo. YouTube. E ci ritroviamo insieme, che nello bello, stesso finalmente. Microfono sì. Stiamo condividendo il microfono, voi non lo vedete, stiamo sputazzando nello stesso microfono. Stiamo condividendo il microfono perché abbiamo un ospite in studio e finalmente parliamo di una di passione professionale, sì, una grandissima passione. Abbiamo già dato un po' di appuntamenti che riguardano anche Radio 24 nel Sabato del Villaggio, perché io sto per trasferirmi a Sanremo. Ha detto Ruggeri che diventa vegano se vince, l'hai detto? Sì, lui ha detto che diventa vegano, però dice che tanto non conta di vincere perché lui vuole passare alla storia. Secondo me, poi se gli tocca, poi vegano. Se tocca, come speriamo. Si può dire, non sono, lo so, secondo come dicono Oxford, dice... sono cazzi, non lo so. Non si può dire. Non credo che si possa dire a quest'ora. Vabbè, comunque parliamo di Sanremo. Io valigie pronte, domani ho il treno alle 11, quindi domani pomeriggio sono già lì. Io per ora non vengo, però non è detto. Stai tranquilla che non è detto che a un certo punto arrivo, tacca a condividere il microfono. Io lo so, io ho il terrore. Infatti no, non vengo perché non c'è il volo quest'anno, quindi non vengo. Allora, facciamo una cosa. So che tu senti molta nostalgia, che proprio ti mancano un pochino. Sì, quindi vorrei farti sentire ancora un pochino di voi. Dai. Così poi parliamo di YouTube perché c'entra. Un pochino, un po' di grande amore, eccoli qua. Chiudo gli occhi e penso a lei. Il profumo dolce della pelle sua è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Ma senti la passione. Che modernità, che musica contemporanea, lo vedi proprio. Stai un po' più indietro perché stai assordando il volo. Ma siamo in 3 centimetri quadrati. Ho capito, vabbè. Però povero volo, noi stiamo parlando. Non mi denunciare, siamo costretti dal microfono. Va bene. Non sono molestie. Senti, sì. il volo hanno oltre fatto ad aver vinto Sanremo, un successo mondiale, l'Eurovision, sono arrivati secondi perché ci hanno rubato la vittoria, vabbè. Però questo era Sanremo dell'anno scorso. Chissà come andrà Sanremo quest'anno. Non ci sono vincitori annunciati. No. Però cerchiamo di capire così che cosa può piacere, che cosa potrà piacere e anche che cosa è piaciuto dell'anno scorso. Perché come facciamo? Allora, vediamo come si può vedere Sanremo senza vedere Sanremo, cioè vedendo Sanremo, per chi non lo vede durante, lo può vedere prima, durante e dopo, anche su YouTube, sai? Ah, ma certo. E puoi avere le classifiche di come sono andati i cantanti l'anno scorso, quelli dell'anno scorso. Quelli più visualizzati. Quelli più visualizzati. E quanto è stato visto Sanremo dopo? Perché, per esempio, adesso l'Auditel conta quante persone ci sono durante la trasmissione, ma sì, poi conta anche quanto viene visto dopo. E allora con chi ne parliamo? Prendo fiato. Ah, perché hai fatto tutta una tiratona. Allora, chi può parlarci meglio di YouTube se non... Chiara Santoro di YouTube Italia, che abbiamo qua in studio. In studio! Ciao Chiara! Chiara, intanto ti chiedo se sei un'appassionata di Sanremo... E di musica in generale. E del volo, ovviamente. Beh, assolutamente di musica, anche di Sanremo... Sul volo non mi pronuncio. No, adesso diciamo che scherziamo, sennò i tre poveri ragazzi. No, io li adoro, io con loro mi diverto sempre. Oppure diciamo subito, sono andati benino, no, malino su YouTube il volo? Ma direi che sono andati piuttosto bene, perché pure su YouTube. Sì, sì, assolutamente. Cioè pure con il pubblico sotto i 65 anni. Ma no, senti, ma se piacciono anche bene a tuo figlio, mamma mia, ma veramente, sì, non si capace. Quanto sono stati visti? Beh, sono stati visti molto, perché appunto il loro video ufficiale in un anno circa ha totalizzato oltre 50 milioni di views, quindi non male. Primo anche su YouTube, primi? Beh, se noi prendiamo appunto tutti gli artisti dello scorso anno, i loro music video ufficiali, il volo è stato appunto il primo video visto tra questi. Quindi... Beh, anche perché sai, è visto in tutto il mondo il volo, eh? Esatto, anche questo. Brava, vedi, questa è una spiegazione tecnica molto giusta, che hanno un pubblico globale, questo va detto. Sì, poi sono andati anche all'Eurovision, quindi sono ritornati, esatto, d'attualità con maggio, e quindi l'hanno rivisto tutti. Poi secondo me molti erano convinti dicevano sentiamo Bocelli, poi c'era il volo. Vabbè, comunque, a parte questo, ma ci sono state delle sorprese invece tra gli altri? Beh, per esempio, se noi confrontiamo quella che è un po' la classifica dei music video degli artisti dello scorso anno su YouTube con quella che è stata la classifica finale di Sanremo, troviamo che ad esempio al secondo posto nei video più visti, tra i video più visti di YouTube per quanto riguarda Sanremo 2015, c'è Lorenzo Fragola. Ah, Lorenzo Fragola, le Fragoliners, le sue fan. E tra l'altro Lorenzo Fragola torna anche quest'anno, quindi diciamo che potrebbe essere tra i papabili. E poi ad esempio ha fatto molto meglio su YouTube che non nella classifica, diciamo, finale di Sanremo, Nesli. Alla metà le mie visualizzazioni sono mie, probabilmente. Sì. Perché Nesli? No, no, Amy Schill è Divi Mercate. Scusa, no, pensavo. Però Nesli è bellissimo, quindi l'ho guardato tantissimo io. Ma senti chi è arrivata terza. Chi è arrivata? E c'è anche appunto ulteriore, anche un'altra artista ha fatto molto meglio su YouTube che non nella classifica, diciamo, finale del festival, ed è Anna Tatangelo. No, l'editata! Che era arrivata ultima, vedi? In realtà sì, non era andata benissimo. No, sai che ci sono eliminazioni, non era andata proprio pronti benissimo. Via fuori. Non era andata proprio ci bene. Ci sono anche quest'anno le eliminazioni. Certo, ci sono l'ultimo giorno, però a differenza dell'anno scorso, ci saranno gli ultimi 5 in classifica, uh-huh, e ne verranno eliminati 4 perché uno verrà salvato in pratica dal televoto, quindi si televoterà per tenerne uno di questi. La novità del meccanismo per appunto un po' far coinvolgere il pubblico. Ma invece tutto Sanremo quanto è stato visto? Insomma, i video ufficiali dei cantanti che hanno partecipato a Sanremo 2015? Beh, hanno fatto molto bene. La musica è uno dei grandi argomenti di interesse su YouTube. Chiaramente Sanremo non poteva fare diversamente, quindi in totale i music video ufficiali del 2015 hanno totalizzato oltre 151 milioni di views, ma soprattutto il dato che forse può interessare di più, se noi sommiamo tutto il tempo speso dagli utenti guardando questi video, si arriva a 864 anni di watch time. 864 anni di Sanremo continuato. Fa ridere, in un anno 864 anni. Mi piace tantissimo. Esatto. Quindi sottratta la parte della cagnola con Nesli, comunque esatto, saranno 600 anni, tipo, sì, una roba del genere. Due secoli di Nesli, il secolo breve. Però a questo punto abbiamo citato Lorenzo Fragola, vistissimo, certo, l'anno scorso e anche in gara quest'anno, quindi dal vostro osservatorio YouTube potrebbe essere uno dei favoriti. Fatto salvo appunto le differenze poi tra classifica ufficiale e quella reale, però così per fare un gioco di favoriti secondo YouTube potrebbe andare bene. Ma diciamo che noi abbiamo a disposizione uno strumento che è Music Insights, statistiche musicali, che ci permette insomma di rilevare quella che è un po' la popolarità a livello proprio di artista, quindi della musica che viene ascoltata appunto su YouTube. E se noi guardiamo tra gli artisti che parteciperanno quest'anno, artisti come Rocco Hunt, Lorenzo Fragola, Clementino e Francesca Michielin nel 2015 sono stati particolarmente popolari su YouTube, quindi la loro musica è stata molto ascoltata. Lorenzo Fragola, che appunto giustamente citavi, è anche nella classifica, è stato anche nella classifica di YouTube Rewind 2015, quindi dei video più popolari dello scorso anno, insieme anche al Volo. Ah, vedi, del Volo ritorna la maledizione del Volo, Daniele. Non puoi farci niente. No, ma poi sono famosi in tutto il mondo. Ma abbiamo ancora tempo? Abbiamo ancora tempo. Curiosità, ma siccome mio figlio che ha 8 anni usa YouTube come, non so, 8 anni, aspetta. Sì, 7 e mezzo. Comunque, insomma, trova tutto, qualunque cosa. Non sapeva ancora scrivere che già riusciva a usare YouTube. Non ho capito come. Ma è per pubblico giovanile oppure su YouTube iniziano a smanettare anche quelli un po' più grandi, anche di noi, diciamo? Ma YouTube è una piattaforma globale ed è davvero un pubblico molto molto ampio, anche dal punto di vista proprio delle fasce di età, quindi davvero è uno strumento che un po' tutti usano, da appunto bambini fino, insomma, a fasce di età più grandi. Anche per questo è molto difficile magari riuscire ad individuare dei trend esatti, proprio perché il pubblico è molto molto ampio, quindi ci sono quelli come me che passano il tempo a guardare i tutorial del trucco. Sì, ci hai fatto vedere che sei iscritta a 35 canali diversi di trucco. Make-up. Io guardo le ragazze che si truccano e faccio il mi rilassa guardare. Strano, la gente che si trucca. Tra l'altro non ne hai per nulla bisogno, quindi perché lo fai? perché se mi vedi struccata capisci. E altre curiosità legate a come si vede. Prima, per esempio, mi dicevi che anche la musica classica tira parecchio. Beh, ci sono sì tantissimi artisti anche che emergono da YouTube e magari non fanno un genere di musica che sia propriamente mainstream, pop, perché magari non la trovano in TV e se la cercano su YouTube. Ma anche perché sostanzialmente quello che conta davvero su YouTube è anche molto l'engagement che si crea con la community. Pensiamo, non so, giusto. Quindi c'è molto anche questa componente. C'è stato un caso bellissimo quest'estate anche in Francia, ad esempio, di questo trio delle LG, che appunto sono 3 ragazze giovanissime, 3 cantanti con un violoncello, che hanno fatto un bellissimo mashup su YouTube e hanno fatto letteralmente il giro molto carine. Questo non... ci sono un sacco di ragazze, ad esempio in America, che suonano la chitarra, no? E fanno, sì, le cover con la chitarra. Ah sì, una però, l'abbiamo mostrata però sempre molto scollate, e piace molto perché c'è questa cosa che non si vede niente di strano, però sono chitarriste di ma dici che lo fanno talento. Apposta? O han caldo tutte, Daniele. o le temperature sono alte. Tra l'altro qua fa un caldo oggi. Fa un gran caldo. Ragazzi, vai. Io vorrei salutarvi, però allora facciamo un pronostico YouTube. Secondo me il pronostico YouTube anche per quest'anno è questo qua. Passerà, stanotte passerà, e forse torneremo ad amarci. Allora, non lo so se Lorenzo Fragola vincerà Sanremo 2016, sicuramente è uno dei favoriti, perché poi col televoto secondo me lui andrà forte. Ci sono alcuni artisti che andranno veramente forte, però secondo me quando ci ritroviamo nel 2017 la classifica di YouTube, della YouTube Music Insight, secondo me lo vedrà ancora molto alto. Diciamo, almeno per YouTube secondo me Lorenzo Fragola sarà ancora piazzato molto bene. Forse arriverà. Ah, ma è lui! È lui! Adesso ho capito chi è Lorenzo Frank! È bravo! E forse cercherai le mie mani. Questa era quella del Sanremo dell'anno scorso, però siamo. Capito! Guardi. A me piaceva Annalisa, era l'anno scorso, no? Anche quest'anno c'è Annalisa. C'è anche Annalisa. Allora forse vengo, vedi, ti sei rovinata, allora forse vengo. Allora, vogliamo fare un ringraziamento, un saluto e un appuntamento magari a dopo Sanremo? Così ci facciamo una giornata. Certamente, grazie Chiara Santoro di YouTube Italia e a dopo Sanremo. A dopo Sanremo, Chiara, torna a trovarci. Noi sono in breve pausa, poi ci troviamo ancora e poi parliamo ancora di qualcosa che ha a che fare con YouTube, sai? Ma tra poco però, tra poco. Grazie a voi. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presento... Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pino Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 1212. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digital radio. Radio Tube. Questi ragazzi molto molto particolari, perché loro vengono dalla periferia di Napoli, la periferia quella là più violenta, quella nella quale la periferia è normale, non succede niente, cioè una cittadina tranquilla, non è successo niente. Sì. Loro hanno iniziato facendo i pizzaioli. Quindi hanno aperto questa pizzeria. Noi facciamo video su internet, sul web. Siamo napoletani, però non è che loro sono napoletani, fanno la pizza. Sono molto divertenti, mi hanno contattato per questo. Però non bisogna dimenticare il loro passato, la loro vita e i loro drammi. Perché la scorsa settimana avevamo festeggiato questo video girato con Barbara D'Urso, il milione di iscritti dei The Jekyll, e abbiamo detto: ma chissà se riusciremo mai ad avere qualcuno dei The Jekyll. A Radio Tube parliamo sempre di loro. Siamo grandi fan, grandissimi fan. Allora, il regista, secondo me, non so se è la mente diabolica dietro tutte queste idee, adesso glielo chiediamo, ha un nome o uno pseudonimo, ma noi diciamo un nome favoloso che a me fa impazzire. Buonasera a Francesco e basta con due B. Ciao Francesco. Ciao ragazzi. Allora, voglio sapere intanto com'è nata questa idea della Barbara D'Urso lacrimevole che raccontava tutti i casi umani dietro la vostra. Diciamo che noi avremmo voluto festeggiare con un cameo d'eccezione il milione di fan raggiunti, e proprio in quel momento Barbara ci ha contattato e ci ha detto: no, ragazzi, vorrei fare un video con voi. Quindi le abbiamo proposto questa cosa, lei è stata molto autoironica, perché in effetti prende proprio in giro il personaggio che è diventato poi famoso. Sì, brava. E quindi ci ha ospitati da lei per fare questa intervista, che tra l'altro alcune persone ancora non credono sia stata girata davvero. Cioè pensano che sia un fotomontaggio. No, dai, bellissimo. Beh, ti fanno un complimento pazzesco, a dire la verità. Ah beh, certo. Infatti, non saprei come si faccia un po' una roba del genere. Effetti speciali hollywoodiani. Comunque, a pensarci, un milione, che non vuol dire un milione, è tanto. Un milione che è proprio botto, sono iscritti. Sì. Cioè, nemmeno ci crediamo attualmente, infatti siamo ancora un po' emozionati per la cosa. No, anche perché è proprio il segno del fatto che noi siamo qua a guardare ancora alle 10 del mattino i dati dell'Auditel, ma c'è un altro mondo del quale poi spesso non si parla, ma che altro che ci sono programmi, cioè conduttori, autori, capostruttura che noleggerebbero la zia per un milione anche di telespettatori. È cambiato un po' di roba, concordo. Più che altro noi siamo molto felici perché, oltre al di là del milione, siamo contenti. Per esempio, l'ultimo video che abbiamo lanciato stava in classifica con altri video più visti, che erano tutti youtuber molto giovani, quindi gamer. Certo, perché sono tutti ragazzini che si riprendono giocando ai videogiochi. Il video sui 30 anni, quello belli. Quello dei 30 anni. Allora, stupendo. È un po' strano vedere che il video dei 30 anni ha superato il mezzo milione accanto al video, al gamer che faceva vedere il gameplay di un videogioco. Tieni conto che io l'ho visto tre volte, solo io l'ho visto tre volte, quindi è stato merito tuo, Allora facciamo una cosa: per chi non avesse visto questo straordinario video che racconta dei 30 anni, il video dei The Jekyll, un brevissimo estratto che mostriamo alla radio. Vai. Ma voi siete The Jekyll? Sì, siamo noi. Sì. Oddio! Madonna. Che The Jekyll. Possiamo farci una foto con voi? Certo, ma che scherzi. Noi vi seguiamo dai primi video su YouTube. Ma quando eravamo piccoli come voi, allora? Ma tu quanti anni hai? 29, perché? Ma sei vecchio. Va bene, noi dobbiamo andare. Ciao, grazie. è una scena fantastica, a parte che a me è capitato tipo 40 volte, mi sono ritrovato in tutte le... È tratta da una storia vera, cioè. tratta da una storia vera, però avete trovato il guru che vi può dare i consigli giusti e noi mostriamo un pezzettino alla radio del grande, del maestro, eccolo qua. Ciro, devi capire che la tua generazione ha delle cose bellissime, cose che i giovani d'oggi non capiranno mai. Ad esempio, non sapranno mai che rumore fa un modem 56K. Toc. C'era un po' di metallico. Ecco, questo intendevo. Oppure non sapranno mai che cosa si prova a sentire musica su MTV. Noi c'eravamo quando si giocava a Crash Bandicoot. O quando, che ne so, le Spice Girls fecero il loro primo film. Una merda. Una merda totale. Sì, una grandissima merda, però c'eravamo. Tu c'eri, tu sai cosa vuol dire giocare col Game Boy o fare, ti ricordi, la collezione delle schede telefoniche? Il karaoke di Fiorello. Filmini porno con le videocamere mini DV. Perché anche tu? Certo, l'ho comprato apposta, due, ne ho comprato, comunque vabbè. Ciro, ogni età ha le sue cose belle. E se ti piace andare a dormire alle 11 di sera, oh, vai a dormire alle 11 di sera, sti cazzi. Ricorda, non è tanto quanti anni hai, è quello che ti piace fare che ti rende veramente giovane. Giovane come moi, come me. Beh, Max Pezzali che vi dai... Questa è geniale. Cioè, Francesco, questa è veramente un colpo da maestro. Cioè, io non me l'aspettavo. Abbiamo girato con un sacco di personaggi famosi, senza nulla togliere agli altri, ma lui è veramente incredibile. Cioè, lui è proprio come lo vedete e come lo vediamo. Cioè, una persona... anni 90, molto dolce, molto gentile, disponibilissimo, faceva un freddo assurdo quando abbiamo girato, è rimasto lì un sacco di ore, quindi veramente squisito, un grande. Beh, straordinario. Devo dire che effettivamente nel mondo di YouTube in cui ci sono i quindicenni, già averne 30 significa averne 30 significa essere io alcune quelle cose lì neanche me le ricordo, cioè perché non le ho perché vissute, tu già non te le... vabbè lasciamo perdere. Francesco, voi avete fatto, secondo me voi come da Jack l'avete segnato due momenti molto importanti nella storia delle web series, della TV e della via web in Italia, per capirci con gli ascoltatori. Con Lost in Google è iniziato tutto, e poi con gli effetti di Gomorra sulla gente veramente avete sorpassato a destra la TV, cioè è diventata più famosa la parodia della serie, Francesco. Ahimè concordo, cioè nel senso, adesso mi è difficile anche guardare magari Gomorra, ma stiamo vedendo i teaser della seconda stagione e in effetti fanno un po' ridere troppo perché, sì, perché ormai Beav, cioè è ormai avete sorpassato davvero la serie vera, è incredibile quella, però secondo me quell'effetto non ve l'aspettavate. No, noi siamo molto fan della serie, cioè eravamo e siamo tuttora, quindi come già successo in passato volevamo rendere omaggio, perché poi insomma quando qua andiamo avanti a citazioni in ufficio, quindi è nata da lì l'idea, il fatto che Ciro si fosse davvero imbambolato per Gomorra. Poi purtroppo però il fenomeno ha preso il sopravvento, e quindi in qualche modo abbiamo scavalcato anche l'effetto drammatico della serie. Ci dici in due parole come nasce un'idea dei The Jackal? Escludendo droghe e... cioè di quelle che si possono dire. Ma direi che così basta come risposta. No, a parte scherzi, abbiamo un lavoro molto corale, per cui capita spesso che magari a qualcuno venga un'idea o si sia impuntato su qualche serie come appunto Gomorra, che ne prende con gli altri, poi discutendone si costruisce insieme il prodotto e lo si confeziona come video, quindi è un lavoro molto collettivo, molto di squadra. Bello, mi piace un sacco. Io allora aspetto con ansia il vostro prossimo video, perché sono super contenta. Potete fare avere 40 anni, così ci medesimiamo meglio. Ma possiamo, sì. Per quello dei 40 potete venirlo a girare a Radio 24, vi ospitiamo noi. Sì. Va bene, grazie. Ciao Francesco, Francesco e basta. Grazie ai The Jackal. È il momento di salutare. È il momento di salutare. Tu sei quasi sulla partenza. Sì, lì sei, io sono quasi per Sanremo. Non capisco se mi viene a trovare, se ti chiamerò. Sei al casello di Carisio, sì, come dicevi. No, vogliamo vogliamo ridere, ridere al casello. Vogliamo cantare, cantare con la panda. Sei lì che vai, mentre vai io ti saluto, canto una canzone. Lo scopriremo la prossima settimana. No, mamma mia, che paura. Ecco. Allora, è il momento dei ringraziamenti. Sì, che devo ringraziare Cristian Goldoni, che ha pazientemente aiutato questi due matti a confezionare. Gli ho detto che deve avere l'integrativo Cagnola. L'integrativo Cagnola, cioè soprattutto integrativo Cagnola. E poi Paolo Corleoni in regia. E poi voglio fare un ultimo saluto, perché oggi è 6 di febbraio, quindi voglio mandare un bacio a Rudy, perché è passato un anno, ma è come se fossero passati due minuti, mi manchi sempre un sacco. Ci ritroviamo sabato prossimo. Ciao!